Letture di Radio 24. In Italia sono circa 1,5 milioni i giovani attratti dall'alcol a basso costo, o meglio, a tutti i costi. Il termine inglese è binge drinker, ovvero bevitore compulsivo, alla ricerca di tanti drink a poco prezzo. Molti pub offrono diverse soluzioni, specialmente durante gli happy hours, per favorire l'ubriacatura veloce. Sentiamo meglio di cosa si tratta in questa indagine pubblicata sul Corriere della Sera. Alcol low cost. Promozioni stracciate per attirare gli adolescenti offrendo bicchieri per pochi centesimi. A Firenze, Roma, Napoli, Milano, sulla Riviera Romagnola. I gestori ne inventano di tutte. Lo scorso inverno in Piazza Santa Croce a Firenze, un bar richiamava clienti proponendo 5 shot a 5 euro. C'era chi si era inventato il beer pong, un gioco che consiste nel tentare di centrare con una pallina una brocca piena di birra, da consegnare gratuitamente all'abile vincitore di turno. La formula della competizione ha successo. I concorrenti si sfidano, si esaltano, chi vince ritenta per bissare. E il praticante del binge drinking, ovvero della bevuta compulsiva, dello sballo cercato a tutti i costi, viene soddisfatto pienamente. Un fenomeno in progressiva ascesa. Si è creato uno zoccolo duro. Ci sono gli specialisti che escono di casa con questo obiettivo. Gli ultimi dati sull'alcol in Italia sono usciti a metà dello scorso anno. Su circa 36 milioni di consumatori, uno su quattro viene considerato a rischio perché segue modalità sbagliate. E tra questi 9 milioni, circa 1,5 milioni sono giovani, il 50% è sotto l'età minima legale, attirati sempre più dal binge drinking. Si è consolidato il modello di chi persegue l'ubriacatura veloce. Sono capaci di scolarsi più di 6 bicchieri uno dietro l'altro fuori pasto e nei luoghi di aggregazione. Lo sballo arriva rapidamente perché a quest'età l'organismo non riesce a metabolizzare, non possiede gli enzimi necessari, analizza Emanuele Scafato, direttore dell'Osservatorio Alcol presso l'Istituto Superiore di Sanità. Neppure i giovanissimi sfuggono alla tentazione. A Roma, il sindaco Alemanno ha dovuto vietare con un'ordinanza scaduta il 31 dicembre il cosiddetto pub crawl, una sorta di nuotata alcolica. Pacchetto venduto al prezzo di 20 euro da apposite agenzie. Gruppi di un centinaio di ragazzi venivano accompagnati lungo un itinerario di locali, per lo più di Trastevere. Ad ogni tappa uno shot, un bicchierino. Le comitive si trasformavano in bande di ubriachi, molti finivano al pronto soccorso. Un irlandese una sera è finito nel Tevere, non l'hanno più trovato. La formula del paghi uno, bevi due è la più diffusa, soprattutto negli happy hours, quelle dell'aperitivo dalle 17 alle 19. Poi c'è il drink as much as you can, bevi quanto più possibile. Il cliente paga un prezzo fisso, attorno ai 10-15 euro, e si serve a volontà. Avete ascoltato la lettura dell'articolo 1,5 milioni di giovani attratti dall'alcol low cost di Margherita De Bac, pubblicato dal Corriere della Sera di martedì 18 gennaio. Letture di Radio 24. A scuola appena nati. Potrebbe non essere soltanto una battuta. In Gran Bretagna, infatti, è arrivata sulla scrivania del Premier David Cameron una proposta che prevede di avviare il ciclo scolastico direttamente dai primi giorni di vita, per essere certi che a 5 anni tutti i bambini siano capaci di imparare a leggere e a scrivere. Nella Sparta antica, a 7 anni i bambini venivano staccati dalla famiglia per imparare l'arte della guerra. Nell'Inghilterra moderna, invece, vogliono spedire a scuola i bambini, o meglio i neonati, fin dalla nascita. Regressione o semplice boutade? Il Times, che ha pubblicato questa possibilità, non scherza per niente e riprende un rapporto della commissione del governo britannico secondo cui l'età scolare dovrebbe cominciare alla nascita. Lo studio, predisposto dal parlamentare laburista Graham Allen per il governo di David Cameron, sostiene che al primo vagito ogni suddito di Sua Maestà dovrebbe essere iscritto al primo anno e poi proseguire con anni successivi parallelamente all'età. Il primo ciclo, ribattezzato gli anni delle fondamenta, dovrebbe avere dignità rispetto ai cicli di istruzione primario e secondario. Ma per quale motivo Allen è arrivato a questa conclusione? Troppi bambini, scrive nel rapporto, arrivano all'inizio della scuola vera e propria impreparati. e quindi serve il supporto alle famiglie da parte del governo. Entro 18 mesi, dunque, il governo dovrebbe predisporre un piano di sostegno per le famiglie per i primi 5 anni del nuovo ciclo, durante il quale il governo sarebbe tenuto a monitorare periodicamente lo sviluppo sociale ed emotivo di ogni bambino del Regno Unito. Fin qui l'Inghilterra. Ma in Italia cosa ne pensano gli esperti di una proposta così dirompente? Mi sembra più una battuta che un'affermazione di principio, spiega Mauro Grimoldi, presidente dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia. È un estremismo. Visivamente sembra quasi di volerlo rapire dalle braccia della mamma. Grimoldi spiega infatti che prima degli 8-9 mesi il bambino non ha alcuna percezione del mondo esterno. Il sé e l'altro sono mescolati, racconta. Gli stimoli sono ripetitivi. Il neonato avverte il profumo della mamma, il contatto, e in questo modo si crea una sensazione di maggior fiducia. Insomma, la socializzazione prima degli 8-9 mesi non presenta nessuna utilità. Verso l'anno, però, le cose possono cambiare, ben vengano gli asili nido, naturalmente di buona qualità e corredati da educatrici che siano all'altezza della delicata professione svolta. In questi casi, aggiunge l'esperto, i bambini crescono meglio, sono più svegli e la socializzazione del bambino anticipata al primo anno di vita è ormai diventato un vantaggio sia per i genitori sia per i bambini. Nell'età scolare diventano più bravi degli altri. Se si esaminano i risultati degli ultimi test Invalsi, ossia sul livello di preparazione, per la seconda e la quinta elementare nell'anno 2009-2010, emerge che i bambini abitué degli asili nido hanno una preparazione migliore sia in italiano che in matematica, rispetto ai loro coetanei che sono stati a casa con la mamma fino a 3 anni. Ma soprattutto al sud persiste anche una forte diffidenza all'idea di far uscire da casa i propri piccoli almeno fino ai 3 anni di vita. Una recente ricerca della Banca d'Italia rileva che ben il 58% dei genitori italiani ritiene che nella prima fase della vita è preferibile che i bimbi restino con le mamme. E molti psicologi e psicoterapeuti condividono questa posizione, mettendo in guardia dal senso di sradicamento e di abbandono che può nascere in bebè affidati a 7-8 mesi a cure esterne alla famiglia. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Un bambino appena nato? Già pronto per andare a scuola? Di Enza Kusmai, pubblicato dal Giornale di martedì 18 gennaio. Avete solo 19 anni. È quanto si sono sentiti dire 3 giovani ragazzi italiani appassionati di informatica e in cerca di finanziamenti nel nostro paese per i loro progetti. Avevano idee poco promettenti? Non si direbbe, dato che dopo essersi trasferiti a San Francisco hanno convinto in un'informale chiacchierata di 5 minuti gli investor di YouTube che, riconosciuta la qualità dei loro progetti, li hanno finanziati per $100.000. Sono cresciuti a pane e tecnologia, avendo come modello le storie di successo del fondatore di Microsoft, Bill Gates, e quella vissuta 20 anni più tardi da Mark Zuckerberg, l'ideatore di Facebook. Anche loro avevano il pallino dell'informatica e anche loro, alla fine, il loro progetto l'hanno realizzato in California, in quella Silicon Valley che negli ultimi decenni è stata la culla dell'innovazione. Augusto Marietti, Marco Palladino e Michele Zonca, rispettivamente 22, 21 e 28 anni, sono però italianissimi e in Italia avevano anche provato a coniugare business e nuove tecnologie. Con un progetto valido in testa e tanta voglia di fare, hanno atteso per mesi una risposta che non è mai arrivata, bussando a centinaia di porte e confidando in venture capital che non erano pronti al rischio. Così hanno deciso di buttare lo sguardo oltreoceano e sotto il sole californiano qualcuno li ha notati. Già nel 2008 abbiamo iniziato a cercare i finanziamenti, ma abbiamo avuto in cambio solo parole, spiega Augusto Marietti, nato a Roma ma trapiantato a Milano. Ogni volta il refrain era lo stesso: avete solo 19 anni. Quello che doveva essere un punto a favore era visto come un ostacolo. Mettendo insieme i loro pochi risparmi, i 3 amici hanno iniziato in un garage di via Panfilo Castaldi, nel centro di Milano. Lì è nato Mashape, un sito web dedicato agli sviluppatori, un luogo in cui è possibile creare un'applicazione in 1 ora e decidere di distribuirla subito gratis o a pagamento sul mercato. Fino all'ultimo hanno provato a sperare in un segnale prima di decidere di partire per San Francisco. Spendevamo 350 euro di affitto al mese, racconta Michele Zonca, nato a Lainate. Siamo partiti con 3 computer e una grande lavagna e nel tempo libero cercavamo investitori o clienti. Siamo andati a dormire in motel come nei film, raccontano. Mangiavamo riso e fagioli per risparmiare. A turno uno di noi andava agli appuntamenti delle principali rassegne tecnologiche americane, fino a che non abbiamo incontrato gli investor di YouTube, che hanno subito creduto in noi. Gli abbiamo raccontato il nostro progetto seduti su una panchina, anni di lavoro compressi in 5 minuti. Dal primo incontro ne sono seguiti altri 2 molto informali. Sbrigate le formalità legali in 19 giorni, dopo una stretta di mano e un pranzo con sushi, sono arrivati i primi finanziamenti, $100,000. Adesso Augusto, Marco e Michele sono in viaggio per l'Europa per sviluppare l'idea e acquisire più utenti possibili. Ce l'hanno fatta! Avete ascoltato la lettura dell'articolo I 3 milanesi rifiutati in Italia che hanno sfondato nella Silicon Valley di Ambra Craighero, pubblicato dal Corriere della Sera di giovedì 20 gennaio.